un saluto a tutti e a tutte. È una corrispondenza dalla Colombia, dove si sta sviluppando una grande resistenza contro una diga che Enel y Endesa stanno costruendo nel sud-occidente della Colombia, nella regione del Huila. Il progetto di questa diga viene da lontano e realmente è stata fu proposta per la prima volta nel 1997. Oggi nel 2007 riprende questa proposta, questa volta viene approvata senza battere ciglio e a partire dal 2010 iniziano i lavori. Questi lavori hanno visto, questa diga vede l'opposizione di una grande quantità di popolazione del Huila, della regione interessata, riunita dall'organizzazione che riunisce i danneggiati dalla diga del Quimbo. Sì, perché questa diga inonderà circa 8.500 ettari, dei 5.000 sono di terre altamente produttive, specialmente il cacao, ma anche riso, yucca, che è un tubercolo, platano e altre e allevamento. E per quanto riguarda il restante, la parte vera e inondata, si tratta di una riserva naturale di protezione alla selva amazzonica. Quindi un progetto dall'impatto gigante, un progetto che non serve come asserisce, come pretende asserire Enel e Endesa, la controllata di Enel spagnola, che è direttamente colei che fa il progetto e costruisce la diga. Perché questa energia sarà fondamentalmente Ecuador, Perù, però probabilmente anche Venezuela, e a rispondere alla prevista crescita del fabbisogno interno, in quanto Colombia, d'accordo a quello che pretendono i suoi governanti, dovrà svilupparsi con quello che chiamano la locomotiva minerario-energetica, ovvero trasformare tutto il territorio della Colombia, si parla di circa 25 milioni di ettari dati in concessione a imprese minerarie per estrarre oro, carbone e petrolio e gas. Per cui praticamente è una diga che non serve alla popolazione locale, non serve per lo sviluppo della Colombia, ma serve semplicemente per il fabbisogno energetico di tutte le multinazionali che stanno accudendo in questo paese per saccheggiarlo. Le popolazioni colpite sono popolazioni fondamentalmente contadine, piccoli proprietari terrieri, braccianti, mezzadri, però anche pescatori. Pescatori e piccoli minatori artigianali che sopravvivono, diciamo, attraverso la pesca, appunto, alla raccolta di oro in piccolissime quantità sulle rive del Rio Maddalena. E loro hanno portato avanti un po' la storia di questa resistenza. Potrebbe considerarsi anche un po' la metafora del conflitto colombiano. Loro hanno portato avanti da 4 anni una resistenza molto dura, ma fondamentalmente pacifica, fatta di manifestazioni e fatta di denunce, querele, appelli all'autorità pubblica, studi, argomenti. Cioè diciamo che si sono affidati per un meccanismo vigente nello Stato di diritto che prevede che appunto attraverso argomenti, se gli argomenti sono validi, si possa esprimere la propria opinione e far valere quello che sono i propri diritti. Tutto questo non è servito, non è servito perché c'è una evidente intenzione del governo di lasciare via libera completamente a Enel, e per cui oggi siamo arrivati alla condizione estrema in cui il 20 febbraio è prevista la deviazione del fiume, e il fiume verrà incanalato in due tunnel nella montagna per seccare il tratto necessario per costruire il muro della diga. Assoquimbo ha convocato, e già da 1 mese e mezzo è accampata di fronte ai tunnel per impedire fisicamente la deviazione del fiume. Perché praticamente in questa maniera, se venisse deviato, loro morirebbero annegati praticamente. Quindi Enel ha richiesto lo sgombro forzato, quindi possiamo dire che Enel sta mandando l'esercito e le SMAD, che sono gli squadroni speciali antisommossa, a reprimere e a sgombrare le persone. Lo sgombro è previsto per il 14 di febbraio e a Stoghimo non è intenzionata in nessuna maniera di andarsene, diciamo, o di accettare la sconfitta, perché è una questione che per loro ne vale la vita, cioè 2.000 persone che verranno sfollate da questa valle e che non avranno nessuna alternativa economica per vivere. Secondo quello che si all'interno dell'Enel e di Endesa, dovrebbero andare a sommarsi all'altissimo numero di profughi interni di Colombia. Si parla di 4 milioni di persone che sono profughi della violenza, ma anche dei megaprogetti e di questo stesso sistema economico che esclude, diciamo, la maggior parte della popolazione colombiana dalle ricchezze del paese. Per cui ormai loro, le vittime di questa diga, hanno deciso di giocarsi tutto per tutto, resisteranno, non hanno intenzione di andarsene. Quello che si prevede è una giornata, il 14 febbraio, molto dura, perché già nella zona c'è una presenza cospicua dell'esercito e degli antisommossa, come dicevo, che praticamente lavorano in collaborazione strettissima con l'impresa. Si muovono su imbarcazioni di proprietà di Enel, si muovono e vengono e coordinano le loro azioni con la sicurezza privata di Enel. L'esercito colombiano e gli squadroni antisommossa diventano in questa maniera la polizia privata dell'impresa. Vengono venduti all'Enel per sgombrare le persone. Allora, in tutto questo è importante risaltare due elementi. Uno è il momento cruciale di questa lotta di resistenza contro la diga dell'Enel. Perché? Perché l'Enel ha tempo circa fino al 20, fino a fine febbraio, per deviare il fiume. Dopodiché si prevede che, a causa dell'inverno e la stagione delle piogge, il fiume non sarà più deviabile perlomeno fino all'anno prossimo. Per cui il momento è algido ed è molto importante, perché se la resistenza riesce a impedire la deviazione del fiume, potrebbe saltare l'intero progetto, in quanto loro non possono, cioè Enel non può permettersi di bloccare i lavori un anno in attesa della stagione secca, e per poi fare il tunnel. L'altro elemento a risaltare sicuramente è il paragone, diciamo, la trascendenza di questa resistenza rispetto a mille altre lotte di resistenza che sono contro questi megaprogetti, progetti minerari, progetti energetici, dighe, ma anche la stessa alta velocità in Italia. È un momento importante, perché una vittoria, qualsiasi vittoria contro uno di questi giganti, contro uno di questi megaprogetti, è una vittoria per tutti coloro che si stanno opponendo ai grandi progetti del capitale transnazionale, ed è una sconfitta. Allo stesso tempo sarebbe una sconfitta per tutti. Quindi è un po' l'invito a capire quanto è importante questa lotta, che magari per adesso, per il contesto italiano e per il movimento italiano, può sembrare una lotta molto molto lontana. Però è importante precisamente sottolineare che mai come oggi, contro queste manovre, è importante recuperare il concetto di internazionalismo, in quanto colpire Enel è in pregiudizio, perché è l'impresa che costruirà praticamente la diga. In Colombia è come colpire in pregilo per quello che ha fatto in Italia, o per quello che fa in mille altri posti del mondo. Quindi proprio l'invito in assoluto è quello di capire la trascendenza e l'importanza di unificare questi percorsi.